L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati. Cantiamo sui balconi, facciamo scuola online, online lavoriamo e chi riesce prova anche a fare la spesa senza uscire di casa. Ovviamente tutto il rispetto e l'affetto per chi continua a garantire i servizi essenziali, siamo qui anche noi. Ci avete mandato però tanti racconti di come è cambiata anche la vostra piccola economia. Io sono sempre stato il consumatore perfetto, a me piace spendere. La situazione che stiamo vivendo oggi mi costringe a rivedere completamente le mie abitudini, diciamo i miei consumi. Si consuma poco o nulla. Credo che siano aumentati molto i consumi relativi ai generi alimentari, perché da quando siamo obbligati a stare a casa dobbiamo necessariamente mangiare in 5, sia a pranzo che a cena. Recuperare, riciclare, di evitare sprechi, sperperi, perché penso che ce ne siano già troppo. Mentre prima cercavamo di andare ogni 2-3 giorni a fare la spesa prendendo soprattutto prodotti freschi, adesso cerchiamo di andarci una volta a settimana e prendere magari prodotti che siano meno deperibili, prodotti che si possano conservare più a lungo. Anche, come dire, la macchina è quasi inutilizzata, diciamo, andare a fare benzina non mi ricordo neanche più quando è l'ultima volta che l'ho fatta. Ho scoperto che è possibile visitare musei sul computer ed è molto divertente, è quasi come se fossi lì. Il museo che mi è piaciuto di più è la Cappella Sistina, perché guardando gli affreschi danno una sensazione di ampiezza e di infinito. Chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno. Ben ritrovati dunque da Anna Migliorati, la nostra e la vostra piccola economia. Vi ho promesso che avremmo continuato a monitorare come facciamo la spesa, perché è uno dei tanti indicatori che ci racconta anche come ci sentiamo. Lo facciamo però tra poco. Prima andiamo a salutare un altro ospite. Dicevamo, ci sono tanti italiani a casa, altri che però sono al lavoro. Siamo vicini ovviamente a medici e infermieri in primissima linea. C'è già anche chi ha definito come eroi però delle nostre città una piccola economia della quale magari avremmo comunque parlato, ma che ora da Cenerentola si trova invece in prima fila. Non parliamo questa volta dei supermercati, ma parliamo delle edicole. I servizi di informazione non si fermano e così non si ferma neanche chi vende i giornali. Buongiorno Ermanno Anselmi, direttore Fenagi Confesercenti, l'associazione delle edicole. Sì, buongiorno. Vi avevano quasi dimenticati e all'improvviso siete tornati ad essere un fattore essenziale in questa emergenza. Innanzitutto le chiedo che effetto vi fa. Diciamo, siamo combattuti tra due sentimenti contrastanti. Da una parte la presa di coscienza di un ruolo, dall'altra però non ne nego che c'è tanta paura, anche se ci stiamo attrezzando tra di noi, guanti, quelli che ci abbiamo, mascherine. Anche perché voi come servizio essenziale, ma ovviamente non ospedaliero, non è che le mascherine ve le danno, ve le dovete trovare. Ce le dobbiamo trovare, sono introvabili, si apre comunque al mattino presto, chiudiamo sostanzialmente pomeriggio, chiudiamo perché non ci va di restare ancora esposti al rischio. E anche noi come associazione raccomandiamo la massima cautela, quindi però ecco, il servizio lo facciamo. Chi viene in edicola? Avete visto facce nuove in questi giorni? No, in edicola vengono i nostri cari vecchi clienti, col vecchio coincide anche la fascia d'età a cui interessa più il giornale di casa. Dai cinquantenni in su, ecco, cresce la consapevolezza della pericolosità del coronavirus e ogni giorno vediamo meno nostri clienti, guarda la televisione tanto lo stesso. E che è giusto, stare in casa è giusto. Detto questo, a voi è stato chiesto di restare aperti come presidio. Noi è stato chiesto di stare aperti, non c'è obbligo di stare aperti, non perché questo deve essere un invito alla chiusura, però come i supermercati, i negozi di frutta e verdura, e quindi noi cerchiamo in qualche modo di assolvere questo onere che ci è stato indirettamente consegnato. Un messaggio che si sente di dare, insomma, in fin dei conti, dicevamo, le edicole da cui abbiamo cominciato erano state un po' dimenticate e ora siete un po' un fanalino nelle città, un punto di riferimento. Sì, questo è estremamente positivo, che finalmente qualcuno si accende di noi. Io ho dei dati sugli incassi che sono drammaticamente poveri e non so quanto riusciremo a reggere in questa situazione, perché anche chi viene in edicola spesso si limita a comprare il quotidiano, quindi tutta una sorta di prodotti che invece aiutavano l'edicola a stare in piedi e viene a mancare, e quindi poi a fine mese i conti sono da pagare. Ti cerchiamo di venire incontro e far tenere in piedi questa rete, se veramente è una rete che serve a tutti, a noi per primi, ma serve soprattutto alla cittadinanza. È un modo finalmente corretto di fare informazione. Leggere un giornale di carta è sempre meglio che leggere le notizie su Facebook. Dirlo una volta in più vale sempre sì, la pena. Sempre la pena, sì. Grazie intanto. Grazie anche a voi, buon lavoro. Piccole cose crescono. Marco Gambaro non è con noi, lo ritroveremo sicuramente. Bentornato invece, come promesso, a Marco Colombo di IRI, società di analisi di mercato. Le premetto già che ho molte domande da farle anche da parte di chi ci ha scritto. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a te. Com'è andata questa settimana? L'elemento di differenza rispetto alla settimana precedente è stata la restrizione agli spostamenti, molto più forte, molto più rigida rispetto alla settimana prima. Questo ha portato a un forte cambio di tendenza nell'utilizzo dei punti vendita da parte dei consumatori. In particolare, nell'ultima settimana si sono valorizzati i negozi di vicinato, i negozi di prossimità, i supermercati piccoli e i supermercati medi, che sono cresciuti rispettivamente del 41% e del 19%. Sono quei negozi che il consumatore raggiunge a piedi o con dei spostamenti limitati, quindi con un minor rischio di essere esposti a controlli. Quindi diciamo il ritorno al negozio di quartiere. Continuiamo anche a fare scorte? Sì, le scorte continuano. Il fenomeno di incetta non si è limitato alle zone del nord, da dove era partita l'emergenza sanitaria, ma c'è stata una dinamica di accelerazione nel centro e nel sud. È vero che da un lato i numeri di casi di coronavirus ufficiali sono ancora bassi se confrontati con il nord Italia, ma la reazione del consumatore è stata preventiva, più 25% in tutto il sud. Le punte principali in Sicilia, oltre il 30% di crescita sull'anno precedente, e in Campania. E l'online prosegue? Sì, l'online sta crescendo a doppia cifra, nonostante le difficoltà che tutti hanno sperimentato sulla filiera logistica, che non riesce a soddisfare le richieste a breve di consegna. Infatti i cosiddetti lead time, cioè i tempi necessari per portare il prodotto a casa, sono ormai di almeno 15-18 giorni, e quindi la gente non solo ordina, ma, come abbiamo già detto settimana scorsa, continua ad andarsi a prendere il prodotto con il cosiddetto click and collect. Nei giorni infrasettimanali dell'11 e del 12 marzo le vendite sono state 4 volte quelle dell'anno scorso. Ecco, l'abbiamo promesso, per rispondere anche alle domande di chi ci ha scritto e che abbiamo sentito all'inizio della puntata. Mangiamo tutti a casa, le famiglie sono riunite per tutti i pasti, quindi niente ristoranti, niente mense. C'è anche questo che incide, ne tenete conto? Certo, incide, perché si nota uno spostamento dei consumi su prodotti che servono per preparare i pasti a casa. Aumentano gli acquisti di pasta, di farina, di riso, di salse, di sughi e di condimenti. Dall'altra parte si contraggono le vendite di quelli che sono i piatti pronti, la gastronomia preparata, i monoporzionati. Ecco, la chiusura anche dei bar e dei ristoranti influisce, ad esempio, gli aperitivi, che ne so, non si fanno più, ma anche questo in qualche modo ha creato un nuovo fenomeno. Sì, ha creato un nuovo fenomeno, perché di fronte agli effetti delle chiusure dei bar, quindi la riduzione drastica di vendite di cash and carry e distributori bevande e food, si parla di oltre il 40% in meno, alcune aziende hanno adottato una nuova iniziativa, cioè riprendere le consegne a casa come accadeva un tempo. Si consegnano bevande, ad esempio acqua e vino. Non riteniamo che sia una scelta, come dire, strategica di diversificazione di canale, ma sia il tentativo di dimostrare una forte attenzione verso il consumatore, verso i propri bisogni e essere presenti con un servizio nella comunità in cui si opera, in cui si lavora. Grazie, allora ci contiamo la prossima settimana per sentire come sta andando e come cambiano anche i nostri comportamenti, come sempre ovviamente nel rispetto anche di tutto quello che sta succedendo, e continueremo a raccontarvi nei nostri giornali radio. Assolutamente sì, ci sentiamo. Ci trovate sempre qui per raccontarvi anche quest'Italia come non l'avevamo mai vista, economia delle piccole cose, @radio24.it per scriverci, podcast sul sito di Radio 24. Un saluto e ancora un buon sabato da Anna Migliorati.